Abbiamo aperto con un tributo ai Parliament Funkadelic, il P-Funk, e chiudiamo con un altro tributo al padrino del soul, Soul Brother Number One. E chi più ne ha più ne metta. Dato che è passato il treno, visto che siamo al bordo della ferrovia, signore e signori, all aboard, tutti a bordo, the night train.